666. Sintar 666. Binè, Lou, dalla camera di Binello direttamente. Troppi anni qua. Pazza un po', ma no, spiega. Andiamo, la Riviera rappresenta. Se davvero vuoi tagliare, almeno fallo in verticale. Ma nemmeno farti male ti farà dimenticare. La voce del mare la puoi ascoltare, ma non puoi averla. C'è una ragione se alla fine mi ributta sempre a terra. Lo so che tu sei uguale, non fare finta. Adesso mi vuoi, ma poi basterà una spinta per tornare dove il buio mi seduce. Se tutto si riduce a fissare una sola luce, io non ci sto più. Nel buio c'è di più di quanto hai visto tu. C'è la storia sempre uguale di uno sguardo lontano che non cerca più la vita nello spazio di una mano. E mano a mano il tempo stringe con le mani sul collo. Spezza il respiro nel sonno. Mi giro e non dormo nel continuo rimorso. Il mattino fa giorno ma il motivo l'ho perso. Dico cose che poi mi contesti, ma non sai dirmi bene come le vorresti. Non ci pensi però potresti. Non ti ci metti così protesti. Per tutte le mattine che mi sveglio a pezzi, nel letto a contare poi rimontare i resti. Tu li consideri gesti. Hai immaginato se poi io non li facessi? Ci sono quelli coi pretesti di chi fa sì del bene per mettere i manifesti. E poi ci sono quelli muti, di quelli che li senti solo se non ci reputi sconosciuti. Faccio gesti ripetuti, uno è rovinare una giornata ancora prima dei saluti. Sono un fake moralista e salutista, per questo mi aspetto il momento in cui ne discuti. Hai spento il micchio? Minchia. Ai. Vai. Va, sta andando? Allora, Bino Will. Will. Will. Lawrence Sintarsi per Radio XXX. Minchia, non perdiatelo per favore, veramente. Webcam, minchia, li potete anche vedere, ma che cazzo volete di più? Che cazzo, il book dobbiamo fare? Non lo so.